stesse. Il buio in fondo al cuore e poi il viso di un uomo lentamente muore. Fabbriche chiuse nella città.